9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci qui tornati in studio, Oscar Giannino torna ad augurarvi un buon lunedì, un buon inizio settimana e dedichiamo questo nostro primo appuntamento, queste riflessioni insieme ai nostri ospiti e questo orecchio che tendiamo sempre attenti alle vostre voci e ai vostri commenti al tema una nuova cassa al mezzogiorno bis, ce n'è bisogno? È un'idea evocativa di uno strumento nuovo. Quanto dovrà essere nuovo? Quanto della vecchia esperienza della cassa ideata da Cilia De Gasperi, da Donato Menichella, da Pasquale Saraceno deve riprendere vita in un ordinamento in tempi così nuovi e diversi? Si tratta di un coordinamento delle forme attuali di fondi di investimento italiani e cofinanziati con i diversi strumenti europei. Vi ricordo che sono almeno tre i maggiori strumenti di investimento europeo, cioè il Fondo Sociale Europeo, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, poi quello che tante polemiche ha alimentato in questi ultimi mesi, da che c'è il governo Berlusconi, c'è il cosiddetto Fondo per le aree sottoutilizzate. E proprio su questo argomento si è alimentata la polemica di una parte della PDL del Sud, che ha iniziato a dire che il ministro Tremonti in effetti era un po' troppo proclive a dare retta alle ragioni della Lega. Avete visto in queste ultime settimane il dibattito come si è sviluppato, ancora oggi trovate sui quotidiani, oggi che doveva in teoria essere previsto un nuovo approfondimento tra Berlusconi e i leader della Lega, come ogni lunedì inizio settimana, la Lega dice no a un'idea di una nuova cassa, di un nuovo ente, di una nuova banca, ma esiste comunque un problema. Da dopo il 2013, allo scadere di quello che si chiama il sessennio, cioè i bilanci delle forme di investimento europeo vanno di 6 anni in 6 anni, come sapete il quadro attuale è quello per il 2007-2013, dopo il 2013 entriamo in un nuovo regime in cui i finanziamenti alle diverse aree, diversi obiettivi europei per questi diversi fondi che vi ho citato prima diminuiranno molto per effetto di un pieno adeguamento ai livelli di reddito medio dei nuovi paesi entranti da est Unione Europea, e quindi noi perderemo molti contributi. Che fare per quel momento? Come programmarsi e attrezzarci? Ecco, io ho fatto questa breve introduzione, ora mi interrompo, tornerò su un po' di numeri, ma intanto vi presento i nostri ospiti di questa mattina. Abbiamo con noi il professor Francesco Forte, buongiorno Forte. Buongiorno. E il professor Salvatore Modica, buongiorno Modica. Buongiorno. Ecco, professor Forte, iniziamo prima ancora che addentrarci su questioni storiche, iniziamo a fare un po' di chiarezza tra a chi stanno le competenze oggi di tutti questi fondi, perché forse proprio dal ricapitolare questo punto ne emerge che forse un po' di chiarezza nel coordinamento sarebbe utile. Lei che dice? Beh, io penso che il coordinamento sia indispensabile, perché attualmente c'è una dispersione assurda di competenze e direi anche manca una strategia, cioè gran parte dei fondi regionali di sviluppo europei sono assegnati alle singole regioni, le quali quindi del meridione, le quali quindi non operano in un'ottica del mezzogiorno nel complesso, ma nella propria ottica regionale. E questo fa sì che il mezzogiorno non sia concepito come una unità, mentre dovrebbe esserlo, perché la Puglia confina con la Campania confina con la Calabria confina con la Sicilia e naturalmente confina poi con la Puglia, eccetera, ma ciascuno va per conto suo. Va poi per conto suo il Ministero delle Infrastrutture, vedi la famosa autostrada non a pedaggio Salerno-Reggio Calabria, e vanno per conto loro anche il Ministero del Tesoro, che dispone di una parte di questi fondi, e il Ministero delle Attività Produttive, che dispone di un'altra parte ancora dei fondi. Quindi noi abbiamo un assieme di entità pubbliche, tre almeno, che operano separatamente, e tutte le regioni meridionali, cioè Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria, Basilicata, no, Abruzzo e Molise sono fuori adesso da questo schema, e quindi mi sembra che attualmente ci sia una segmentazione assurda, anche perché gran parte dei fondi in questo modo o non sono spesi o sono spesi Ora, da qualche altro dato, dai conti pubblici territoriali, quelli elaborati dal Dipartimento per la coesione che sta presso l'economia, quindi cito la fonte per evitare che si pensi che siano dati non ufficiali, mi sono tirato giù un po' di elementi per capire di che cosa stiamo parlando. Cioè, è vero innanzitutto che la quota di investimenti e trasferimenti pubblici nei confronti del Mezzogiorno è diminuita, che c'è questa specie di drenaggio del nord della Lega negli ultimi anni? Direi di no, se mi consentite, perché guardando questi dati dal 1996 al 2008 si vede che la somma degli investimenti pubblici fatti dall'amministrazione centrale, pubblico, settore allargato, mettendoci dentro anche le società a controllo residuo pubblico, cioè Eni, Enel, Finmeccanica, Poste e così via, sul totale degli investimenti e trasferimenti pubblici, quelli per il Mezzogiorno sono stati sempre in una media, diciamo, dal 41 all'anno in cui è più bassa è il 36,8%, con una media del 38% negli ultimi 12 anni. Che cosa capita? Capita che a scendere, non lo dico per polemica politica, c'è qui la tabella, se ve la potete scaricare dal sito dei conti pubblici territoriali, a scendere la quota di investimenti e trasferimenti è negli anni del centro-sinistra al governo, cioè gli anni 96, 98, 99, 2000, poi risale al 41% nel 2001, anno di elezioni, e poi il minimo viene toccato al 34,9% l'ultimo anno del governo Prodi, due anni fa, e quindi i dati dicono questo, punto numero uno. Poi, seconda questione, è vero che questi investimenti e trasferimenti pubblici sono scarsi, anche qui se si fa una disaggregazione si vede alla quota di capitale pubblico per occupato nel nostro paese, l'ho fatta sempre in questi ultimi 12 anni, e questo è un conto più elaborato perché nessun l'Istat non ce lo dà il conto disaggregato dell'input e dell'output regione per regione, quindi uno solo deve elaborare, ci sono molti paper di giovani economisti italiani che lo fanno. Comunque, se uno va a fare questa ricerca trova che a fronte di una media nazionale 100 di trasferimento e capitale pubblico investito per occupato, il Piemonte sta a 79, la Lombardia 59, il Veneto 56, la Sicilia 140, la Campania 150, la Calabria 169, la Sardegna 202, la Basilicata 280. Quindi il capitale pubblico comunque per occupato è molto più, tra virgolette, intenso nel sud. Voi potrete dire sarà molto più intenso anche perché ci sono meno occupati e più disoccupati. Però per misurarne la produttività bisogna per forza fare una graduatoria per unità di lavoro occupata, e insomma la graduatoria non è molto soddisfacente dal punto di vista della produttività del sud, anzi l'intensità del capitale, che come vedete arriva a essere 3, persino 4 volte per occupato piuttosto che nord, ha effetti di produttività bassissimi. Poi mi sono preso la briga anche di vedere, disaggregando questo investimento e trasferimento pubblico per enti erogatori, e questo è molto interessante perché si vede che in generale direi i comuni pesano sulla quota di investimenti e trasferimenti pubblici molto meno del nord, cioè mentre nel Lombardo-Veneto per esempio il 35% delle risorse di investimento pubblico sono gestite e erogate dai comuni, la quota al sud scende fino al 22% della Basilicata e della Calabria, cioè almeno 10 punti sotto. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che le gestioni di bilancio dei comuni del sud sono meno efficienti, spendono più soldi per i propri dipendenti. E idem bisogna dire anche per la regione, quindi è un problema molto concentrato nella capacità degli enti locali di erogare e soprattutto di controllare risorse. Fine di questa nuova batteria di dati. Professor Salvatore Modica, alcuni di questi dati che l'ho richiamato potrebbero consentire agevolmente di dire in fondo il Mezzogiorno è un problema di classi dirigenti e di amministrazioni locali, e proprio per questo parrebbe pensare Tremonti c'è bisogno di un nuovo ente centralizzatore e coordinatore. Lei che dice? Ma io eviterei le duplicazioni, nel senso ci sono i dirigenti del ministeri, ci sono i dirigenti della comunità europea, anche se ne dovremmo fare a meno, perché aumentare il numero di nodi decisionali allo stesso livello, che poi ognuno deve controllare quello che fa l'altro, io credo che sia un rischio di duplicazione organizzativa e decisionale. Non che non ci voglia una regia nazionale, perché questo è ovvio, chi eroga i fondi li deve gestire, deve essere responsabile, eccetera, eccetera, però Temo che un altro centro di spesa, centro di decisioni, sia superfluo, devo dire. Io eliminerei un po' di centri di decisione esistenti. Oggi noi, ogni regione fa il proprio piano, poi lo passa a ogni nazione, poi ogni nazione lo passa alla Comunità Europea, e la Comunità Europea lo mette in un pentolone e dice sì a tutto quello che viene fuori. Perché? Perché c'è troppa gente coinvolta. C'è troppa gente coinvolta, secondo me. Quindi lei sterrebbe, insomma, le regioni, malgrado la prova che abbiano dato fino a questo momento non sia proprio molto soddisfacente. Come pilastro essenziale, lei terrebbe le regioni? Sì, quindi. Certo, come pilastro essenziale io terrei le regioni, però teniamo conto che, per esempio, nella regione siciliana, di cui ho un po' più di informazione, la Corte dei Conti dice ci sono 2111 dirigenti contro 237 che ce ne dovrebbero essere per stare in media nazionale il rapporto dipendenti-dirigenti. Mi pare che sia esplicito il suo sospiro dopo questo numero che ha pronunciato. Secondo me ci vogliono meno teste che ragionano e decidono. Tenga conto che questi dirigenti guadagnano 200.000 euro l'anno, 5 dirigenti fanno 1 milione, con 1 milione io chiamo 3 premi Nobel e gli faccio fare consulenza per un anno e gli chiedo, senti, che facciamo? In effetti, anche dal punto di vista quantitativo, l'esempio del Nobel è abbastanza, purtroppo, illuminante. Iniziamo con gli ascoltatori. Carlo da Milano, prego. Sì, non nascondo, sono preoccupato anch'io rispetto al creare un ente centrale se non c'è un discorso di maggior controllo. Cioè, secondo me la cosa sta a monte, ovvero sia o mantenendo la struttura attuale dove ci sono le regioni che hanno un diritto di parola più forte o cambiandola. L'importante è determinare in maniera chiara la responsabilità, ove si possa andare a prendere chi non utilizza bene le risorse oppure addirittura illecitamente. È vasto programma, perché, per così dire, a giudicare l'efficienza e l'efficacia dell'allocazione delle risorse, in realtà poi, tranne le indagini della Corte dei Conti o nel caso in cui vi siano cose penali, naturalmente le indagini delle procure, ma sono gli elettori locali, mentre invece se il governo poi entra nel merito di come viene fatta l'allocazione o di come vengono proposte i diversi progetti per avere accesso al Fondo Sociale Europeo, al Fondo Europeo di Sviluppo o al FAS, il governo si deve fermare, perché sono le singole regioni ad avere naturalmente sia la proposta, il diritto di progettualità, sia quello poi, una volta assegnate le risorse, della gestione. Quindi è un po' delicata questa cosa, perché in realtà è come se noi fossimo di fronte da una parte al processo di accentuazione del decentramento e del federalismo, delle responsabilità di spesa al più basso livello possibile, che è quello che ha, insomma, ispirato la politica italiana in questi anni, dall'altra come se dicessimo però nel sud non funziona, bisogna centralizzare. E quindi questo però è una contraddizione, perché al nord chiede l'esatto opposto. Franco da Padova, che ne pensa lei? Sì, buongiorno, intanto vi ringrazio e vi faccio i complimenti per l'ottima trasmissione. Io partirei da uno scatto precedente, nel senso che vorrei fare una considerazione un po' personale, basata su alcuni studi che sto facendo in maniera autonoma dal 1996. Mi sono preso la briga di farmi arrivare tutti gli anni dalla Ragioneria Generale dello Stato i bilanci corposi che lo Stato pubblica con 2 anni di ritardo. Allora io parto da questo presupposto, al di là del fatto se sia utile o meno fare una nuova casa del mezzogiorno, per me sarebbe un altro disastro umanitario. Comunque il problema è che se i cittadini, specialmente quelli del sud ma anche quelli del nord in toto, sapessero qual è la vera gestione dei soldi, come lo Stato amministra i soldi che incassa e che spende, la gente avrebbe delle valutazioni in merito molto più tecniche e molto meno politicizzate o patriciizzate. Io sono rimasto sconvolto dal fatto che Lombardo abbia puntato i piedi in questa maniera, perché, ripeto, lo Stato italiano, per come è pubblicato sui resoconti della Ragioneria Generale dello Stato, appunto, è una fabbrica che ha 20 dipendenti e ognuno di questi dipendenti destina diciamo, un compenso che è esattamente l'opposto di quello che capita nelle nostre fabbriche, vale a dire che so, il Veneto produce pro capite il doppio del PIL dei siciliani, anche più del doppio, però i siciliani vengono destinati il doppio delle risorse dei veneti. Sarebbe come che io avessi un operaio che lavora 2 ore e gli do 1.000 euro al mese, e un operaio che ne lavora 12 gliene do cioè, non so se mi sono spiegato, sì, cioè, sì, sì. La paga quadrupla per chi lavora un quarto. Se, siccome io conosco diversi, ho diversi amici in Sicilia, guardi che in Sicilia molta gente è convinta di mantenere il nord, cioè, questi hanno la convinzione che noi in qualche maniera portiamo via qualcosa a loro. Ma allora, se l'informazione è proprio così, perché qui ci metterei anche dentro un po' i giornali, le potrei dire un'altra cosa. Il Sole 24 Ore 8 anni fa ha pubblicato uno studio certificato dell'INPS dove metà del debito pubblico è stato generato dalla previdenza sociale. La regione Sicilia dal 1980 al 2000 ha accumulato debiti poi finanziati con i BOT e CGT per 275.000 miliardi di vecchie lire. Non so se mi spiego. La storia dei conti pubblici italiani consentirebbe di andare avanti molto a lungo. Lei dice bisogna assolutamente fare più informazione su questo, perché altrimenti manca un corredo strumentale essenziale per capirsi meglio. Questo è sicuramente vero. Io stesso i numeri di cui ho parlato prima me li sono dovuti tirare giù io dal sito, e come ho detto le serie contabili dei diversi input all'output delle diverse regioni l'Istat non ce li dà. Quindi da questo punto di vista è vero che viviamo in un paese in cui spesso le fonti statistiche, insomma, si potrebbe lavorare meglio. Ecco, questo è un appello al nuovo presidente dell'Istat che spero verrà raccolto. Ancora un ascoltatore, Roberto da Roma, prego. Pronto, mi sentite? Certo, parli pure. Buongiorno. Senta, io ho una sensazione strana, ho l'impressione, la paura, direi, che Berlusconi sia fra due fuochi, quelli della Lega Nord e quelli della Lega Sud. La dico in maniera un po' più brutale. Ho l'impressione che la mafia abbia chiesto il conto e che Berlusconi non può far altro, dico la mafia nel senso del bacino di voti che c'ha la mafia in Sicilia, non può far altro che accondiscendere. Dall'altra parte ci sarà sicuramente una reazione uguale e contraria, e non so come se la possa cavare Berlusconi con questa pioggia di denaro che arriva in maniera così evidente e così grossa alle rimostranze che farà la Lega, a meno che non si mettano tutti d'accordo come in Italia poi alla fine succede sempre. Non so cosa ne penserei di questa cosa. Ma guardi Roberto, io penso che è chiaro che il mezzogiorno abbiamo letteratura purtroppo e atti processuali accumulati a Iosa, è l'area d'Italia dove si accentrano anche fenomeni di criminalità organizzata molto vasta, e questi fenomeni di criminalità organizzata hanno prosperato con una capacità molto forte di indirizzo di una parte rilevante delle risorse pubbliche investite in infrastrutture, opere, questo non c'è dubbio. Dall'altra parte lei è così convinto che esponenti politici come quello del PDL del Sud agiscono perché la mafia che glielo ordina? Non credo, ovviamente, cioè, stiamo parlando di Michiché ha coordinato per dal 2001 al 2005 al Ministero dell'Economia, esattamente era la testa della struttura che coordinava le risorse che servivano per cofinanziare l'accesso ai fondi europei, perché sapete che la struttura è che il finanziamento è 50-50, quindi da quel punto di vista è stato responsabile per anni, e proprio per questo dice: mi sono reso conto che oggi c'è bisogno di uno scatto di qualità, di un colpo di reni, perché altrimenti quelle risorse verranno meno, c'è bisogno di più risorse e bisogna inventarsi qualcosa. E poi oltretutto dice: in effetti la Lega è più efficace di noi nel sapere promuovere le sue cose. Certo, il rischio è che di queste risorse la mafia ne prenda, però attualmente, e la polemica che viene dal centrodestra, dal mezzogiorno è proprio questa, in realtà più che di risorse aggiuntive, si tratta semplicemente di sbloccare quelle che erano già destinate. Io vi ricordo che il totale delle risorse 2007-2013 che spettano alle regioni meridionali ammonta a 48 miliardi di euro per quei soli 3 fondi europei che vi ho detto all'inizio. Quindi, insomma, di risorse ce ne sono tante, non è questo il problema. Un ascoltatore, Claudio da Prato, prego Claudio. Vede Giannino, io uscirei un attimino dai luoghi comuni. ascolto discorsi che sono abbastanza scontati, mi scusi la brutalità. Di solito è la premessa per aggiungerne qualcun altro, mi perdoni, sì, la brutalità. Ma infatti parto, ma veda, io vedo, parto da un'esperienza personale e dico che la Cassa del Mezzogiorno, che ha distribuito una miriade di soldi, ha creato un'enorme rendita di posizione al nord. Quindi attenzione, dobbiamo uscire un attimo dalle regole. Il problema del Meridione in realtà non lo risolviamo dandogli soldi e basta, perché questo è pacifico, l'esperienza ci insegna questo. Quando io gestivo il credito agrario e mi arrivavano i fondi europei e non, i soldi che noi davamo per il credito agrario non andavano per niente al miglioramento agrario, andavano semplicemente a acquistare titoli di Stato. Quindi cerchiamo di essere molto precisi in questo. Ma il problema di fondo è che non possiamo scindere il nord dal sud, sono problemi collegati. La Cassa del Mezzogiorno ha fallito, o meglio, ha distribuito un'enormità di soldi che non sono serviti a far decollare il Mezzogiorno, anche perché molte di queste risorse sono state drenate evidentemente da chi ha utilizzato anche del nord questa opportunità per rifinanziarsi. Cioè, usciamo un attimino dalla regola, il problema non è il sud, il problema è l'Italia. Cioè, l'Italia è un complesso ben collegato in cui grossi gruppi finanziari, politici e anche economici, nonché diciamo sindacali, hanno gestito le cose a proprio esclusivo vantaggio. Noi non risolviamo niente dando soldi, lo risolviamo capendo i problemi. Quindi penso che questo discorso non rientri tanto nelle banalità a cui lei accennava precedentemente. Questa è l'esperienza che uno ha sul campo. Il campo dice questo, la realtà di tutti i giorni dice questo, perché molte risorse che arrivavano venivano drenate comunque da chi li utilizzava politicamente, sindacalmente, economicamente per riportarli in altri luoghi. Grazie. Quindi, Claudio, guardi, la mia opinione è secca, ma io sono minoritario in questo. Ci sta spiegando semplicemente la teoria della burocrazia complessa di Weber. Allora, se la vogliamo davvero prendere sul serio, la mia risposta è che meno reddito pubblico intermediato da strutture pubbliche, meno si ingenerano i fenomeni di cui lei parla, che sono coessenzialmente legati a ogni tipo di intermediazione pubblica. Poi ci sono paesi in cui sono più elevati, come da noi, altri paesi che hanno una tradizione storica diversa come quelli scandinavi, ma in realtà più reddito si intermedia attraverso strutture pubbliche, più gli attori di questa intermediazione tendono a tutelare i propri interessi e a convogliarlo laddove essi ritengano che i propri interessi vengano meglio soddisfatti. Cioè, la pubblica amministrazione, che agisce come un braccio di una virtù divina, capace di interpretare davvero gli interessi pubblici e non, ripeto, le constituency di appartenenza di chi è ai vertici di questa amministrazione, appartiene a un sogno edenico. Voi lo potete coltivare, cari ascoltatori, nessuno ve lo proibisce, ma è un sogno edenico, la realtà è diversa. Quindi io per questo sono un po' polemico quando sento dire ognuno si tutela. Certo, se vogliamo che il 50 e più per cento del paese sia fatto di spesa pubblica del reddito nazionale, questo capita. Perdonate la mia parentesi un po' polemica. Ora torno a fare solo le domande ai nostri ospiti che abbiamo un po' troppo trascurato. Professor Forte, lei cosa pensa in realtà dell'esperienza storica della Cassa sia davvero, possa costituire spunto per un nuovo strumento di coordinamento, qualche cosa, oppure semplicemente la lezione negativa dei suoi ultimi 15 anni, 20 anni rispetto ai primi anni in cui fu fondata nel 50-51, e soprattutto la lezione negativa, quella che dobbiamo ricordare. Lei che dice? Io dico che qui c'è un'enorme confusione. La Cassa del Mezzogiorno non c'entra niente in quello che Berlusconi intende fare e in quello che io sostengo. Si tratta di individuare, e anche in tutto quello che questi ascoltatori hanno detto che mi fanno cascare proprio le braccia, sia quelli del sud sia quelli del nord, si tratta di individuare 4, 5, massimo 10 grandi opere e di agire su queste. Tutto il resto è, come dici tu, un assieme di intermediazioni parapolitico-economiche che non interessano a nessuno. Ed è inutile interrogare i premi Nobel, si sa quali sono queste 7-8 grandi opere, ciò che occorre alla Puglia, ciò che occorre alla strategia complessiva del Sud. Poi per fortuna verranno meno questi fondi, ma si tratta di fare alcune grandi opere e quello che deve esserci a Roma è un'agenzia la quale, se le grandi opere non si fanno, nomina un commissario. E questi delle regioni avranno un po' dei soldi che lo Stato gli ha regalato e che Bossi vuole che gli diano per la solidarietà regionale, se li sprecano non servono a niente, ma le grandi opere sono ciò che servono. Quindi dato che bisogna sprecare, lasciamo alle regioni, con questo regionalismo stupido, il compito di sprecarsi i propri soldi, ma cerchiamo almeno di fare le grandi opere con una strategia nazionale degna del fatto che l'Italia sta in Euromed, che sarebbe il progetto mediterraneo, che tra l'altro nessuno se ne occupa, nel 2010 dovrebbe diventare un'area di libero scambio. Quindi dico io, ma insomma, facciamo le grandi opere e per il resto sappiamo bene che saranno soldi sprecati. Questa è la mia tesi e temo e penso, no, che il governo Berlusconi si vada avviando su questa linea perché è una persona concreta. E gli altri non hanno ancora capito, parlano della Cassa del Mezzogiorno, parlano di tutte queste cose, l'unica cosa che dico è che il nuovo ente deve occuparsi solo di grandi opere. Professor Modica, le faccio la stessa domanda però con l'aggiunta, c'è anche un aspetto che riguarda una caratteristica strutturale dopo il grande consolidamento bancario che abbiamo alle spalle dagli anni 90 fino a che la crisi non lo ha interrotto quando insomma era arrivato al suo vertice con la formazione di due grandi istituti bancari. Spesso è un argomento che ricorre quando si torna a lamentare l'insufficienza degli input nella regione del Mezzogiorno, perché si dice in questo grande processo di consolidamento bancario è venuta meno una qualunque presenza bancaria che abbia le quarter, cioè gli uffici di controllo e di allocazione delle risorse, davvero nel sud, e quindi c'è un fenomeno di drenaggio del risparmio rispetto agli impieghi nella regione del centro-sud. Oltre alla domanda che ho fatto, cassa sì, cassa no, e le chiederei di svolgere qualche considerazione su questo, anche un'attenzione su questo aspetto per sapere lei cosa ne pensa, professore. Sì, allora, intanto cassa sì, cassa no, io ho risposto poco fa, secondo me basta il ministero, ci sono dirigenti al ministero che si potrebbero occupare di questa cosa. Per quanto riguarda le banche sono d'accordo, al sud manca un settore finanziario che in un'economia che si sviluppa lentamente è anche di indirizzo dell'economia reale, questo sono perfettamente d'accordo. Però vorrei dire altre due cose, se possibile. Una, anch'io mi sono scaricato i dati CPT, sono una fonte seria di informazioni e la dovrebbero conoscere più persone. Io per la convenienza degli utilizzatori sono circa 160 tabelle che ho ordinato in una unica tabella e metterò presto sul mio sito a disposizione di tutti. Da queste fonti, come diceva lei, si evince che insomma i trasferimenti alle regioni sono più o meno in linea con la quota del PIL della regione sul PIL nazionale, insomma non ci sono tutti questi drenaggi di fondi al sud dal punto di vista del settore pubblico allargato. Mi si potrebbe dire ci sono i fondi europei, allora però dobbiamo un attimo avere in mente quali sono le cifre. Questi 4 miliardi e 300 milioni di euro sbloccati per la Sicilia, per esempio, dal CIPE venerdì scorso, parliamo dell'1% l'anno del PIL regionale. Ma è che sono 4 miliardi e 300. La nuova via Milano-Brescia da sola, sole 24 ore di sabato, ne costa 3 miliardi e 700 milioni. Quindi attenzione a dire tutti i nostri soldi finiscono al sud, cioè la sola nuova Milano-Brescia costa quanto tutti i fondi allocati in 6 anni alla regione Sicilia, di cui tutti dicono aiuto, gli stiamo regalando soldi a questi delinquenti. Però, ciò detto, è un'altra cosa vorrei dire. Mi tocca naturalmente ricordarla che la Brebemi per oltre il 50% è fatto in project finance e capitale privato, però chiusa parentesi. Un attimo solo. Dagli stessi dati CPT, se uno elabora un po' i conti, si vede che non è che tutti i fondi che arrivano qua generano lavoro qua. Noi abbiamo un sacco di auto blu, ma le auto blu vengono prodotte a Torino. Se lei si fa i conti in termini di lavoro generato dalla spesa della pubblica amministrazione sulle tavole CPT, vedrà, e io di nuovo lo metterò sul mio sito giusto per far capire quali sono i conti che mi sono fatti, per farli vedere a tutti, che in Lombardia il 30% della forza lavoro è generata da spesa pubblica. Però, ciò detto, è sicuro che al sud spendiamo male, perché per le due importanti servizi pubblici di cui il cittadino vive, cioè sanità e istruzione, i fondi dati al nord e dal sud sono uguali, il risultato, ma dico da 100 anni a questa parte, sono uguali e i risultati chiaramente sono diversi. Quindi sicuramente spendiamo male, ok? Questo non ci piove. Ma per capire, è il divario fra reddito pro capite del sud e reddito pro capite del nord negli ultimi 50 anni non si è mosso. Per capire cosa dobbiamo fare, dobbiamo pensare un attimo a strategie di sviluppo di lungo periodo. Quali sono queste grandi opere di cui ha bisogno il Sud? Il ponte? No, secondo me l'unica grande opera di cui ha bisogno il Sud in un'ottica di sviluppo è di generazione di lavoro dentro il Sud, di imprese dentro il Sud, è un innalzamento della qualità dell'istruzione delle giovani generazioni. Professore, la prossima tornata, perché noi abbiamo un'interruzione tra poco, le devo fare una domanda però, perché generazioni di lavoro al sud, quando la produttività resta così bassa, lei mi diceva le automobili sono prodotte al nord, e il Marchionne dice io perché devo continuare a tenere aperto Termini Imerese, che dal punto di vista dei costi, di logistica, di trasporto, di produttività e così via, e devo proprio dirlo che lo devo chiudere, e infatti l'ha detto adesso poche settimane fa. E capacità di generazione di lavoro sì, ma quando l'investimento deve allocarsi a prescindere dal fatto che la produttività è così tanto più bassa e quindi insomma i risultati sono a pari intensità di capitale molto minori, diventa un esercizio di distruzione di valore. Comunque ancora due ascoltatori, abbiamo Giampiero da Firenze. Sì, buongiorno. A parte mi viene da ridere quando paragonano la Cassa del Mezzogiorno alla Tennessee Valley Authority, vabbè, ma a parte quello. Beh, ma sa, però in chi la fondò, grandi italiani, era così, sì, vero, e per i primi anni è stata così. È verissimo, per i primi anni, poi non c'è problemi, poi l'abbiamo data in appalto ai vari, no? Quando presentavano progetti fantasiosi per le proteine da petrolio. Va bene. Non ci fermiamo sulle proteine del passato, perché è noto, infatti grazie al cielo ce ne siamo liberati poi di quella... Ce ne siamo liberati, i Rovelli, non si preoccupi, però comunque di tutti gli altri mastodonti scheletri abbandonati al sud non ce ne siamo liberati. Diciamolo chiaramente, la Cassa del Mezzogiorno è servita non per fare sviluppo, ma per dare soldi ai partiti. Fine del discorso, e così continuerà perché tanto è così, perché è una burocrazia la quale si autoalimenta, così come la politica, e l'unico modo per alimentarsi sono i soldi. Ma infatti Giampiero sente che, sia pur da punti di vista e con analisi diverse, i nostri due osservatori, il professor Forte e il professor Modica, si guardano bene dal dire ci vogliono nuove casse, nuove cose e così via. Gianni da Roma, prego Gianni. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Avete speso fiumi di parole e condivido in sintesi: Cassa del Mezzogiorno, niente da fare. Guardiamo la Germania. Nell'89, riunificazione, 15 anni, investimenti massicci, è andato avanti. Problema: classe dirigente inetta, incapace, mediocre. Politica e criminalità. Questi sono i tre nodi. Giannino, lei sa tutto. Volevo fare una domanda specifica sull'INPS. Prego. E poi sulle banche. Noi abbiamo avuto il Banco di Sicilia, Oscar Giannino, che ancora sopravvive grazie ai fondi pubblici che nessuno ne parla. Le banche del sud sono nel braccio della criminalità. E Tremonti parla sempre di Banca del Sud. Banca del Sud è una presa in giro. L'agio che si paga per gli investimenti è superiore, è improduttivo e non serve a niente. L'INPS diceva? L'INPS. E questa è una domanda agli esperti. L'INPS è un istituto nazionale che opera sul territorio nazionale, ha un suo bilancio. Quello che non capisco, e lei mi può aiutare, perché in Sicilia e forse in qualche altra regione si inventano delle procedure che scaricano sull'INPS dei costi aggiuntivi che io, italiano, e lei paghiamo. Tipo, in Sicilia si va in pensione a 50 anni, si va in pensione perché piove, si va in pensione perché questo, e scaricano sull'INPS. Contabilità generale negativa, bisogna allungare l'età pensionabile. Domanda. Ma se è un istituto nazionale e ci sono degli oneri che coinvolgono tutti gli italiani, ci deve essere omogeneità di trattamento e omogeneità di procedure. Gianni, le rispondo subito. No, il problema non è l'INPS, perché quando ci sono, e lei sta facendo per esempio riferimento al fatto che alcune categorie di dipendenti pubblici, classicamente della regione o di società contratta della regione, hanno avuto e continuano ad avere in effetti facoltà di pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia, diverso da quello nazionale. E in quel caso rientriamo nell'autonomia regionale. regionale, quindi sa, l'INPS a quel punto deve pagare e noi dobbiamo pagare, ma i diversi enti disciplinano come vogliono i propri dipendenti, oimè, in quel caso oimè, oimè. Professor Forte, lei ha fatto accenno appunto alle opere, il professor Modico diceva ma quali sono davvero poi quelle opere da cui attendersi il rilancio dell'economia reale meridionale? E poi oltre a questo aspetto, un secondo aspetto, l'agenzia che ha in mente lei, questo snello coordinamento di fondi allocati su bilanci troppo numerosamente diversi oggi nel governo, ecco, questa agenzia sarebbe una struttura più di tipo tecnico o secondo lei c'è bisogno poi di una regia politica che sappia anche equilibrare le diverse, i diversi pesi massimi politici, insomma, del sud e del nord nel governo? Ma io, naturalmente è una mia opinione personale, non vedo questa struttura con una grande burocrazia in più. Questa struttura dovrebbe essere semplicemente uno snellissimo organo senza uffici studi, senza grandi manager, che abbia un compito di decisione politica e che abbia anche il compito di stabilire un collegamento giuridico-contabile tra i vari bilanci, in modo che ce ne sia in sostanza uno solo per l'assieme del Mezzogiorno d'Italia. Quindi per me è essenzialmente un organo di strategia politica che non deve riprendere la Cassa del Mezzogiorno. Si chiama agenzia perché deve avere una struttura, mi auguro, snella e autonoma, ma non dovrebbe essere un ente in più. Ecco, per le grandi opere sono quelle già stabilite, non è che si tratta di inventare altre grandi opere, ce n'è un elenco. Questo piano, devo anche ricordarlo a tutti quelli che dicono che leggono i bilanci, è addirittura del 1986 e sta al Ministero delle Infrastrutture, che ha pubblicato recentemente anche il documento aggiuntivo al bilancio in cui c'è l'elenco delle opere di tutta l'Italia, grandi e medio grandi e anche qualcuna piccola. Quindi si tratta di fare quello che è stato stabilito, non si tratta di inventare altre cose. Certo, professor Modica, nel diverso successo, nei diversi passi in avanti diseguali di avvicinamento del reddito pro capite nazionale di quello del nord, sto parlando delle regioni meridionali, perché in effetti c'è un passo di marcia diverso, se uno va a vedere regioni come la Puglia rispetto a regioni come la Calabria e la Basilicata, non è che il Mezzogiorno è uguale, lo sappiamo da sempre, quelli che si dedicano, insomma, alla letteratura economica dello sviluppo italiano, però insomma una volta che uno deve fare il dibattito in radio bisogna ricordarlo. In questi passi diversi nel Mezzogiorno, dal suo punto di vista, ha contato di più che in quelle parti d'Italia c'è magari un capitale umano, un capitale sociale, le reti che sono a propria volta il presupposto della redditività del capitale, sia esso pubblico che privato, più forti, più radicati, più civili rispetto alle altre parti d'Italia, alle parti del sud, voglio dire, che sono rimaste meno indietro? Oppure in realtà è una diversa qualità della classe dirigente locale nella regione che ha fatto la differenza, secondo lei? Anche degli economisti, voglio dire, perché poi non è vero che nelle grandi sedi universitarie contino proprio così poco storicamente rispetto alla politica in campo sia da una parte che dall'altra, che magari amministra Palazzo dei Normanni in Sicilia o la regione Puglia a Bari. Lei che dice? Quali di questi aspetti secondo lei spiega di più il passo diverso del Mezzogiorno? No, quello che dice lei sicuramente, capitale sociale, riflessione economica, c'è Gianfranco Viesti in Puglia, però chiaramente da solo non basterebbe. C'è anche un problema di costi di trasporto. Pronto, mi sentite? Sì, sì, prego. Io ricordo agli interessati che oggi, per esempio, proprio oggi c'è sulla stampa a pagina 4 un'intervista di Gianfranco Viesti, che è economista ed è stato nominato dal governatore della Puglia Nichi Vendola, assessore alla scuola, all'università, con delega al sud, ma insomma Viesti è per esempio un protagonista da anni di questo tipo di dibattiti. Viesti, sì, Gianfranco ha aiutato moltissimo, però chiaramente insomma bisogna pensare anche ad altri fattori che sono per l'appunto un ambiente più pulito, una burocrazia più efficiente. Però lei me li mette tutti sullo stesso piano così? Sì, secondo me sì, sono più o meno tutti sullo stesso. Ma no, piano, ma io glielo devo richiedere, sa perché? Perché insomma, diciamoci la verità, lei lo sa. Hanno la gente, il contribuente che vede che rispetto a quello che dà ci sono 2-3 mila euro rispetto a quello che pro capite lo Stato spende per lui, mentre come ovvio al sud avviene l'opposto, pensa che invece la qualità delle reti sociali, la qualità delle intermediazioni sopra la famiglia, delle reti civili nel sud sia tragicamente intrisa di illegalità, violenza, reti criminose, e che questo sia una parte essenziale del fatto perché non bisogna metterci più soldi lì. Lei lo sa che è così, quindi se lei mi mette tutto sullo stesso piano, la capacità della burocrazia, le reti sociali eccetera eccetera, temo che noi non facciamo un buon servizio. No, io credo che allora diciamo che io credo che oggi la criminalità non sia così determinante. Credo che quello che ha detto lei prima, cioè la produttività, è più determinante. Marchionne non vuole investire in Sicilia non perché c'è la mafia, ma perché ci sono produttività bassa, costi di trasporto alto, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista, se vuole una risposta chiara in questo senso, la mia è questa. Però il punto su cui vorrei ritornare è quello delle grandi infrastrutture. Giusto per ricordarcelo, la prima voce dei programmi di sviluppo per il Mezzogiorno dal 1880 in poi è sempre stata le infrastrutture, e non hanno funzionato. E se pensiamo allo sviluppo di Giappone dell'inizio del secolo scorso e India e Cina della fine del secolo scorso, non troviamo le infrastrutture al primo posto, assolutamente. Il Giappone nel 1860, mentre Sonnino e Franchetti venivano in Sicilia e dicevano al re: guardate che qua il problema è l'analfabetismo, il Giappone, l'imperatore, ha fatto la stessa analisi del Giappone e ha messo in piedi una massiccia campagna di alfabetizzazione della popolazione che è durata 30 anni. La Cina e l'India hanno hanno cominciato ad accelerare senza infrastrutture. Per andare da una città all'altra in India ci si sta 3 giorni in treno, però hanno menti eccelse. E quindi, per esempio, in Cina tu fai l'iPhone e in Cina dopo 2 mesi te lo copiano. Come te lo copiano? Perché hanno ingegneri di primissimo livello. Non è un problema di infrastrutture, è un problema di testa. Qui noi, i nostri ragazzi, nei test internazionali fanno peggio del Marocco, senza offesa per nessuno. È lì che dobbiamo agire, perché poi è tutto catena e catenella. Che tipo di sviluppo si immagina per il sud, per un sud pieno di sole, di natura, di belle arti, di cultura, eccetera, eccetera? Ovviamente qualche settore di industria soft. I centri di cura avanzati, che qualcuno, quelli che ci sono, funzionano bene, sono un'ottima idea. Si mettono quattro medici bravi e dopodiché... Io me lo auguro, professor Modica, però quello che devo constatare è che Napoli, il più grande porto mediterraneo per traffico di turisti, e che insomma il biglietto da visita per milioni di turisti ogni anno delle navi da crociera, basta vedere il waterfront del porto di Napoli che è praticamente fermo ai bombardamenti del 45. Io non me lo spiego, cioè io effettivamente è una domanda alla quale dico la risposta non la so dare, perché è una risposta che è tragicamente scritta evidentemente nella somma della società civile, degli accademici, dei politici, degli elettori di quella città. Non so cosa dire, non è una condanna, però è una fotografia di fronte alla quale mi risulta difficile che qualcuno possa dire no, non è così. Ancora un ultimo ascoltatore brevissimo a 20 secondi, Marco da Como, prego. Sì, pronto? Dica. Sì, allora partiamo dall'assunto che nel sud, conosco benissimo il sud, non c'è una dicotomia tra una classe dirigente deprecabile e una popolazione invece sommamente santificabile. C'è una stretta connessione tra la classe dirigente e il voto di scambio e il fenomeno della criminalità organizzata. Partendo da questo assunto, al di là del politicamente corretto, dovremmo togliere elettorato passivo e attivo. Cioè lei è per la sospensione. Commissariare tutto il sud con personaggi neanche del nord. Io li andrei a prendere a Berlino o ad Hannover, perché la metastasi è arrivata anche nelle regioni del nord, mettere lì degli specialisti a livello europeo, fare degli interventi di questo Marco, tipo. Marco, la devo interrompere per forza, perché sa, la sospensione del suffragio universale è, certo, è una soluzione un po' radicale, per così dire, quindi sa, non è che la interrompo nel merito dell'illustrazione di un'opinione su cassa sì, cassa no. La sospensione del suffragio universale da sempre è consentita una scorciatoia rispetto ai difettucci, diciamo così, dei rivoloni o dei fiumoni che prende il capitale pubblico investito. Io ringrazio il professor Forte e il professor Modica, due punti di vista, come avete visto, su come non fare casse del Mezzogiorno bis, questa è la nostra conclusione di oggi, ma coordinare meglio il tanto che c'è già e soprattutto guardare ciascuno ai difetti dei propri ambiti economico-ambientali. L'appuntamento a domani, ringrazio Peter Bescapè in regia, Gloria Guerrera e Alessandro Marco Tulli in redazione, la linea al Giornale Radio. Radio 24, la passione si sente.